Radio 24 Reportage. Ritorno a Codogno, dalla zona rossa alla nuova vita, di Raffaella Calandra. Il silenzio della prima zona rossa d'Italia è rotto dagli applausi per il capo dello Stato. Il lungo silenzio di Codogno, che per prima si ritrovò in una sorta di coprifuoco, ora è spazzato via dal vociare del mercato, dalle saracinesche che si rialzano e dai furgoni che si rimettono in movimento in questa bassa lodigiana che solo nelle prime due settimane di chiusura ha perso 100 milioni di euro. In quelle strade dove il 21 febbraio si sentiva solo l'eco dei passi, ora è tornata la vita. Ma anche se da settimane qui non si contano più contagi, la ripartenza è intessuta di timori ed è tutt'uno con la memoria delle 264 vittime in due mesi. Il ritorno è bellissimo, però il ricordo di quelli morti ci ha feriti profondamente. 50 amici, se ne sono, amici e amiche, se ne sono andate. E la ferita nel cuore rimane. Scosse ancora timorose, direi. Sei sempre in punta di piedi. È dura, è stata dura perché ha toccato tutti. Questi due sentimenti che si uniscono, da un lato il ricordo di chi è stato provato dal virus e dall'altro la ripartenza, dobbiamo ripartire alla grande perché non possiamo stare fermi. Sembrava di vivere in un film. C'era un silenzio assurdo, soltanto il rumore delle sirene che passavano in continuazione. È dal 21 di febbraio che si aspettava questo giorno. Ci aspettavamo questo momento. Dopo 100 giorni vediamo un po' di luce, ecco, dal tunnel. Sembra l'inizio di una seconda vita, ecco. In questa seconda vita, Codogno, 15.000 abitanti e un paesaggio che sa già di Emilia e la più alta concentrazione di fabbriche di tutta l'area, fa i conti con lo shock che ancora scuote le famiglie e con una nuova preoccupazione che rimbalza tra i tavolini distanziati del bar Cairoli. Resteremo marchiati per sempre come il paese dell'epidemia? Sinceramente, ancora adesso, giustamente, c'è la paura. Non si può tornare così improvvisamente come prima, perché noi siamo stati sbeffeggiati soprattutto all'inizio da tutta Italia e ancora adesso penso che se uno dica arrivo da Codogno ci sia un po' di così, di diffidenza, di smarrimento. Poi poco alla volta purtroppo abbiamo visto che la pandemia non era solo legata a Codogno. Ci chiediamo sempre, ma lo diciamo quando ci chiedono ma da dove arrivate? Ci chiediamo, ma lo diciamo o no? Però alla fin fine paziente uno, ma abbiamo capito che il virus c'era già da molto prima, certo, quindi Codogno... è stato il riconoscimento del virus presente in Italia, ma c'era già da prima, quindi... Diciamo che Codogno ha avuto la fortuna da un lato e la sfortuna di essere stata colpita per prima, nel senso dove per prima è stato trovato un paziente che aveva il Covid, ecco. Per certi versi, per esempio, rispetto ad altre zone, sto pensando a Bergamasco, siamo stati complessivamente più fortunati perché ci hanno chiuso subito e quindi hanno bloccato, in quei 15 giorni hanno bloccato il virus. Così la prospettiva si è ribaltata e mentre a Bergamo anche un'inchiesta prova a far luce sulla mancata zona rossa di Nembro ed Alzano, qui si è passati dalle accuse ai premi e alle onorificenze per i medici del pronto soccorso che forzando i protocolli hanno individuato il virus nel paziente 1, alla fine guarito e divenuto pure padre, ripercorre il sindaco Francesco Passerini. Io ho ringraziato i medici dell'ospedale di Codogno e la SST di Lodi per il lavoro straordinario che è stato fatto in un momento drammatico e soprattutto in un momento in cui si apprendeva e si scopriva quello che si stava vivendo direttamente sul campo. Quindi è stato, credo, encomiabile e grazie allo zelo della dottoressa Manara si è riusciti a trovare il primo caso e a salvare la vita a lui, al paziente, a Mattia e a tantissime altre persone, perché non oso immaginare cosa avremmo visto o cosa saremmo raccontando se quel giorno, se quel pomeriggio, tardo pomeriggio non ci fosse stato quello zelo. Già è stato drammatico così, non oso immaginare cosa sarebbe accaduto. È simbolicamente qui, all'ingresso del cimitero di Codogno, che il Presidente della Repubblica ha voluto lasciare una lapide per i caduti, così recita il testo del Covid. Caduti, proprio come si dice, delle vittime di una guerra, a memoria anche della sensazione che tutti da queste parti hanno vissuto e che si trascina tuttora nella fatica della ricostruzione. Quella che serpeggia pure tra i banchi del mercato riaperto dopo aver visto sparire la gente in un fuggi-fuggi generale quel venerdì di fine febbraio che sembra lontano più di una vita. È stata una gioia immensa, appunto dopo 3 mesi di fermo, comunque di spese, ritornare alla normalità. Abbiamo ancora comunque dell'invernale invenduto, ormai già pagato da dicembre, e quindi dopo 3 mesi abbiamo dovuto reinvestire dei soldi per far sì che le nostre aziende ripartissero con la roba primavera-estate. Da quando sono iniziati i mercati, oggi è il primo giorno che si vede un po' di gente, perché decisamente era zero, non c'era proprio niente. I negozianti logicamente stanno facendo fatica perché non vendono, cioè è dura. Poi io sento la gente che entra e si lamenta perché di soldi non ne hanno visti, poca voglia di spendere, ma soprattutto sono i commercianti che si trovano in grosse difficoltà, cioè anche la gente comune, non discuto, ma i commercianti che devono fare spesa non hanno soldi. Io vedo gente, anche dipendenti che entrano qua e mi dicono che cassa integrazione non hanno visto niente, devono mangiare, hanno gli affitti da pagare. Nella sua tabaccheria Sogno Italiano, il signor Orlando non ha mai smesso di ascoltare le preoccupazioni dei concittadini di Codogno, ora tutte rivolte alle incertezze economiche, le stesse che fanno parlare Giovan Battista Baselli, che da anni qui arriva col suo furgone dal Bresciano di sbando totale. Siamo proprio allo sbando, dopo 3 mesi di cose. Adesso dobbiamo rifare tutta la vita, rifare i clienti nuovi, perché purtroppo tanti ci mancano. Il denaro serve, però purtroppo non ne abbiamo, perché qua spendono poco, adesso il lavoro non ce n'è e siamo proprio allo sbando. È solo che 3 mesi è la prima settimana che facciamo qualcosina, non un lavoro, però andiamo avanti. I clienti hanno paura a avvicinarsi, insomma siamo in una fase proprio, non capiamo più niente, guardi, un esaurimento quasi totale. Noi siamo abituati a lavorare e lavoriamo sempre. Mi hanno fatto richiesta anche dai 600 euro, visto niente. Non è più un lavoro come prima. E l'abbiamo messo in 4, se siamo in 2. Abbiamo i dipendenti, dobbiamo lasciarli a casa. Come facciamo? Non riusciamo neanche a tirar fuori stipendio per noi due. Le spese sono tante. Anche qui, come nel resto del paese, la nuova sfida ora è questa, quella della ripresa economica, in una terra di aziende agricole ed export dove gli imprenditori stanno andando avanti soprattutto con la loro forza morale, scandisce il sindaco di Codogno, Passerini. Assolutamente, il 50% di tutte le attività che risiedono sul territorio del Basso Lodigiano risiedono proprio nella città di Codogno, quindi è chiaro che l'aspetto economico è assolutamente importante e fondamentale. In 15 giorni di chiusura della zona rossa, solo per il bacino della zona rossa c'è stata una perdita di PIL pari a 100 milioni di euro, solo in 15 giorni, che è stato proprio le perdite recate dalle tantissime attività che risiedono sul nostro territorio. È chiaro che servono aiuti concreti, riuscire a dare liquidità a questi imprenditori che da 3 mesi stanno anticipando stipendi, contributi, sostegni ai loro dipendenti grazie alla forza morale che li lega alle loro attività. E quindi io credo che sia veramente arrivato il momento di accelerare quelle procedure che ancora oggi vedono bloccate, per far arrivare le risorse ai nostri concittadini, ai nostri imprenditori, perché ricordiamoci che se il mondo economico si ferma, il paese si ferma. Quindi non possiamo permetterlo. Passata la prima parte dell'emergenza clinica, adesso dobbiamo concentrarci tutti insieme per cercare di far ripartire più di prima la nostra economia. E noi come comune addirittura abbiamo stanziato all'interno dell'area generale un capitolo specifico proprio per dare sostegno alle attività della nostra comunità. È proprio questa l'Italia del coraggio che il presidente Sergio Mattarella ha voluto omaggiare sotto il grande melo Codogno, simbolo di questa cittadina lodigiana. Questo è il tempo di un impegno che non lascia spazio a polemiche e distinzioni. Tutti siamo chiamati a lavorare per il nostro paese. Qui a Codogno, in questa casa comunale, oggi è presente l'Italia della solidarietà, della civiltà, del coraggio. l'Italia che ha i volti anche della gente di Codogno, che ora sta imparando di nuovo a conoscersi e a riconoscersi, riassaporando la gioia di sentirsi ancora vivi e uniti, per dirla con Giulia, 17enne, che per prima festeggiò il compleanno in quarantena ricevendo l'abbraccio di tante star. Quando le frecce tricolori sono passate su Codogno mi sono sentita veramente viva per la prima volta dall'inizio della quarantena. È stato molto emozionante perché la piazza comunque era piena di gente, tutti abbiamo tenuto un metro di distanza, indossavamo tutti le mascherine, però è stato un momento davvero molto emozionante, guardavamo tutti il cielo e ovviamente ci siamo commossi, abbiamo ripensato alle vittime e a questi ultimi 3 mesi che sono stati un incubo per noi. Prima della fine della quarantena avevo visto le mie migliori amiche il 6 marzo, settimana scorsa abbiamo deciso di rivederci, all'inizio avevamo un po' paura perché non sapevamo se saremmo riuscite a tenere il metro di distanza e pensavamo che ci saremmo volute abbracciare, e adesso usciamo quasi tutte le sere anche perché la didattica a distanza sta finendo e quindi sembra quasi di essere tornate alla normalità anche sotto questo punto di vista. Così lentamente il silenzio di quella che fu la prima zona rossa d'Italia viene accompagnato nella parte dei ricordi più dolorosi, mentre l'estate si sente di nuovo addosso, nonostante la mascherina. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.